Sezione seconda della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto secondo. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno, che cantando varca, tornate a rivederli i vostri liti. Non vi mettete in pelago, che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo giammai non si corse. Minerva spira e conducemi Apollo, e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri pochi, che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui, ma non si vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna eguale. Quei gloriosi che passaro a colco non s'ammiraron come voi farete, quando Giason vider fatto bifolco. La concreata e perpetua sete del deiforme regno c'è importava, veloci, quasi come il ciel vedete. Beatrice in suso, ed io in lei guardava, e forse, intanto in quanto un quadrel posa e vola e dalla noce si dischiava, giunto mi vidi, ove mirabil cosa mi torse il viso a sé, e però quella, cui non potea mia cura essere ascosa, volta ver me, si lieta come bella, drizza la mente in Dio grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Pareva me che nube ne coprisse, lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sol ferisse. Per entro sé l'eterna Margherita ne ricevette, come acqua ricepe raggio di luce, permanendo unita. S'io era corpo, e qui non si concepe, come una dimension altra patio, ch'esser convien se corpo in corpo repe. Accenderne dovria più il disio di veder quell'essenzia, in che si vede come nostra natura e Dio s'unio. Lì si vedrà ciò che tenem per fede, non dimostrato, ma fia per sé noto, a guisa del ver primo che l'uom crede. Io risposi: Madonna, sì devoto come esser posso più, ringrazio lui, lo qual dal mortal mondo m'ha rimoto. Ma ditemi, che sono i segni bui di questo corpo che laggiuso in terra fan di Caim favoleggiare altrui? Ella sorrise alquanto e poi: Se gli erra l'opinion, mi disse, de mortali, dove chiave di senso non disserra, certo non ti dovrie punger di strali d'ammirazione mai. Poi dietro a sensi vedi che la ragione ha corte l'ali. Ma dimmi quel che tu da te ne pensi. Ed io, ciò che n'appar quassù diverso, credo che il fanno i corpi rari e densi. Ed ella: Certo, assai vedrai sommerso nel falso il creder tuo, sebbene ascolti l'argomentar che io gli farò avverso. La spera ottava vi dimostra molti lumi, li quali, e nel quale e nel quanto notarsi possono di diversi volti. Se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtù sarebbe in tutti, più e men distributa, ed altrettanto. Virtù diverse esser convengon frutti di principi formali, e quei, fuorcuno, seguitarien a tua ragion distrutti. Ancor, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, od oltre in parte fora di sua materia si digiuno sto planeta, o sì come comparte lo grasso e il magro un corpo, così questo nel suo volume cangerebbe carte. Se il primo fosse, fora manifesto nell'eclisse del sol, per trasparere lo lume come un altro raro ingesto. Questo non è, però è da vedere dell'altro, e se gli avvien ch'io l'altro cassi, falsificato fia lo tuo parere. Se gli è che questo raro non trapassi, esser conviene un termine da onde lo suo contrario più passar non lassi, e indi l'altrui raggio si diffonde, così come color torna per vetro, lo qual di retro a sé piombo nasconde. Or dirai tu che el si dimostra tetro, quivi lo raggio più che in altre parti, per esser lì rifratto più a retro. Da questa istanzia può deliberarti esperienzia, se giammai la pruovi, che esser suol fonte arrivi di vostrarti. Tre specchi prenderai, e due rimuovi da te d'un modo, e l'altro, più rimosso, trambo li primi gli occhi tuoi rituovi. Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso ti stia un lume che i tre specchi accenda, e torni a te da tutti ripercosso. Benché, nel quanto tanto non si stenda la vista più lontana, li vedrai come convien che egualmente risplenda. Or, come ai colpi degli caldi rai della neve riman nudo il soggetto, e dal color e dal freddo primai, così, rimaso te nell'intelletto, voglio informar di luce sì vivace che ti tremolerà nel suo aspetto. Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo, nella cui virtù dell'esser di tutto suo contento giace. Lo ciel seguente, ca tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze, da lui distinte e da lui contenute. Gli altri giron, per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno, dispongono a lor fini e lor semenze. Questi organi del mondo così vanno, come tu vedi omai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. Riguarda bene a me siccome io vado per questo loco al ver che tu disiri, sì che poi sappi sol tener lo guado. Lo moto e la virtù de santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, da beati motor convien che spiri, e il ciel, cui tanti lumi fanno bello, dalla mente profonda che lui volve, prende l'image e fassene suggello. E come l'alma, dentro a vostra polve, per differenti membra e conformate a diverse potenze si dissolve, così l'intelligenza sua bontà demultiplicata per le stelle spiega, girando sé sovra sua unitade. Virtù diversa fa diversa lega col prezioso corpo ch'ella avviva, nel qual, siccome vita in voi, si lega. Per la natura lieta, onde deriva, la virtù, mista per lo corpo luce, come letizia per pupilla viva. Da essa vien ciò che da luce a luce par differente, non da denso e raro. Essa è formal principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo e il chiaro. Fine del canto secondo.